Silvia Giacomini dovrebbe avere la registrazione del discorso che Vittorio Agnoletto ha tenuto proprio pochi istanti fa dopo l'irruzione della polizia al centro stampa. Silvia. Sì, una conferenza stampa proprio assolutamente improvvisata e ve la faccio sentire registrata. Quello che sta succedendo stasera è una cosa non solo assolutamente vergognosa, ma è al di fuori assoluto della Costituzione italiana. Questi locali li abbiamo avuti dal Comune di Genova, abbiamo il diritto di utilizzarli, sono arrivati in centinaia, non hanno nessun mandato di perquisizione. Abbiamo chiesto di vedere il documento, il dottor Mortola ci ha risposto che il documento non ce l'ha, di ripassare tra mezz'ora. Insieme a un parlamentare, un consigliere regionale, abbiamo cercato di entrare nella scuola di là perché sentivamo delle urla e ci hanno sbattuto fuori a botte. Diversi ragazzi sono stati caricati sulle ambulanze e sono stati massacrati di botte. Questa è la sede del Genoa Social Forum, questo stabile dove stiamo parlando adesso. Qua non c'è nessuna arma, né propria né impropria. Il vice capo della polizia non ha saputo motivare che ho sentito per telefono questo tipo di azione. Avremo tempo di ragionarci. Io faccio due ipotesi. La prima è politica. Questo governo non è in grado minimamente di confrontarsi con un'opposizione pacifica e di massa. Ha paura di un'opposizione pacifica e di massa. Ci vuole spingere su un conflitto non pacifico in modo da reprimerci brutalmente, come già sta cercando di fare. Ma io ipotizzo un'altra ragione. Noi abbiamo raccolto un'importante documentazione di quello che le forze dell'ordine hanno fatto ieri e oggi. E io credo che nell'entrata nella sede del Genoa Social Forum sia alla ricerca di questa documentazione, parte della quale un'ora e mezza fa abbiamo mandato in una televisione nazionale. La documentazione non è qua e lo dico subito perché verità e per non avere problemi, perché ormai siamo in questa situazione, non ce l'ho io. Ecco, adesso hanno di nuovo acceso le luci e i riflettori, i poliziotti fanno una sorta di... c'è un corridoio, dunque ci sono dei poliziotti in borghese che sembrano quelli che comandano. Sta arrivando un'altra barella che sta entrando nel Media Center, è probabile che porteranno fuori un altro ferito e quindi a questo punto sarebbe, secondo le informazioni che ci ha dato anche Agnoletto, il 21esimo ferito. Sì. E intanto qui la situazione all'esterno c'è un'enorme rabbia e i manifestanti urlano continuamente e poi poliziotti. Adesso eccoli. Vediamo chi sta arrivando. Eccole. Allora, ecco, è un via. Ferito, accidenti, un altro ferito, vediamo che... Ciao, la testa, sto correndo per seguire l'ambulanza. La testa fratturata. C'ha la testa fasciata, lo stanno infilando. Ve lo descrivo, ha le ginocchia piene di sangue, si vede stato colpito sulle gambe. Ha la testa fasciata, un uomo di circa 50 anni, la polizia chiude subito. Allora, sì, devono averlo picchiato duramente sulle gambe perché ha tutto il sangue che esce dai pantaloni delle ginocchia, ha la testa fasciata con delle gazze bianche e quindi questo purtroppo è il 21esimo ferito. E intanto stanno arrivando altre ambulanze mentre la gente grida e sta accadendo qualcosa di nuovo. Allora, la polizia chiede spazio, fanno di nuovo il corridoio, vuol dire che esce un altro arrestato, un altro ferito. Questo è quello che si è ripetuto finora. Adesso... È un ferito. Allora, vediamo, è un ferito. Vediamo, io provo a rincorrere con lui. È tutto coperto. Gli infermieri dicono via. È tutto una coperta sopra, e agli occhi chiusi, incosciente. Non riusciamo a capire dove è stato colpito, adesso viene infilato dentro. Siamo il 22esimo ferito. Quello che ci stanno raccontando i nostri inviati è ben di più di un'irruzione a questo punto. Avete sentito i primi conti che si fanno dei feriti. In realtà l'agenzia AGI dà 40 feriti. per l'irruzione, o come la vogliamo chiamare, 40 ecco, feriti fatti nel giro di pochissimi minuti di irruzione. L'unica immagine che mi ricordo non riguardasse me o non riguardasse altri poliziotti che ho visto in questo corridoio è l'immagine di una, penso fosse una ragazza, con dei dreadlock neri, trasportata come una donna dell'età della pietra dai capelli, penso in stato di incoscienza. Purtroppo siamo al 23° ferito, dunque stiamo correndo con lui i barellieri, gli tengono il naso e la testa in su, probabilmente è stato colpito alla faccia perché gli tengono il naso e la testa in su, anche questo è un fatto di semi-incoscienza. Allora, è un ragazzo con i capelli colorati, ha tutta la faccia piena di sangue e gli chiedono do you speak English, quindi non è un italiano. Allora, c'è una ferita su verso la tempia, lo stanno filando dentro l'ambulanza, c'è un pizzetto, credo età probabile sui 35 anni. Torno indietro, questo è il 23° ferito. C'è da augurarsi per Dio che non succedano incidenti questa via stretta, perché se no è un disastro. Una via strettissima, in buco, tutta chiusa dalla polizia. Ecco l'elicottero, come scalzonato perché non sento più nulla, troppo basso l'elicottero. È una roba assurda. Per Dio, passa a 10 metri dalle case, dal tetto delle case. Adesso la polizia si sta muovendo verso l'uscita della via, non si capisce perché. Io provo a seguire i poliziotti, vediamo perché se ne stanno andando, non si capisce se abbandonano, corrono, stanno correndo verso i blindati. Può darsi che sia il momento in cui hanno deciso di abbandonare, è probabile che stiano abbandonando. Stanno andando giù anche i carabinieri a questo punto, stanno indietreggiando a doppia fila con scudi di protezione, a testuggine, e si gridano tra loro, vai, vai, stanno andando via, la gente è in fuoco, speriamo che non accada nulla in questo momento, perché c'è contatto fisico, sono tutti vicini, i manifestanti li inseguono, e li prendono i assassini. L'ingresso del Media Center finalmente è libero e lo guardo da qui a distanza di 30 metri, ci sono ancora alcuni infermieri. Teniamo Bosio in stand-by, lo teniamo in collegamento con noi.